Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Il motore del 2000 sarà bello e lucente, sarà veloce e silenzioso, sarà un motore delicato, avrà lo scarico calibrato e un odore che non inquina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Allora, si parla tanto di auto elettrica e entro il 2030 almeno il 15% delle auto in circolazione sarà elettrica. Insomma, l'elettrico non sarà più una sperimentazione o una passione dei pochi innamorati della natura e dell'ecologia, ma sarà uno standard importante e diffuso. Ecco, in quella data il 40% dei profitti del mondo automotive non sarà generato dalla vendita delle auto, ma dai nuovi servizi per i consumatori. Poi c'è anche un'altra previsione interessante e che riguarda invece le auto autonome, cioè quelle che si guidano da sole. Ecco, quando saranno in circolazione, un singolo veicolo autonomo produrrà 4.000 gigabyte di dati al giorno, cioè quanto fanno 3.000 navigatori di internet messi insieme. Queste previsioni vengono da Accenture, che sta studiando il mondo dell'auto, il mondo della fabbrica dell'auto, che è un mondo che è sempre stato la spina dorsale dell'economia mondiale. Tutta la nostra economia, tutte le nostre vite e tutte le parti delle nostre città girano intorno all'auto, che cambiano la manifattura, l'acciaio, la meccanica, il petrolio, quindi anche la geopolitica, la ricerca e sviluppo, le fabbriche, insomma, cambiano e influenzano grande parte della nostra vita. E adesso l'auto è di fronte a una svolta epocale. Oggi noi ne parliamo con Teodoro Lio, che è il partner di Accenture, che è la fonte anche delle previsioni che ho detto in apertura, e poi ci collegheremo con il professor Patrizio Bianchi, che ci dirà la sua su questi nuovi scenari, che non sono solo scenari di fabbriche o scenari di auto più performanti, sono scenari che toccano le nostre vite e il nostro portafoglio. Buongiorno dottor Lio. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, l'auto sta vivendo una svolta epocale, no? Come discende dai dati che io ho letto in apertura. Sì, sicuramente quello che lei citava è un po' la traduzione in qualche numero e qualche fatto di una trasformazione profonda del prodotto da una parte e della relazione tra il prodotto e il cliente dall'altra. Noi vediamo quattro trend che vanno a cambiare la struttura del mercato dell'automotive. Il primo è quello della elettrificazione e quindi quello del cambiamento da una fonte legata al petrolio, alla benzina e al gasolio verso, come diceva, la spinta verso i motori elettrici, in partenza quelli ibridi e poi quelli completamente elettrici, che va sicuramente a cambiare il contenuto della macchina da un punto di vista di come è fatto il motore, della complessità e del peso relativo dei componenti. Poi secondo sono le famose auto autonome, però mentre sull'elettrico, al quale abbiamo dedicato una puntata, è praticamente certo che diventerà progressivamente uno standard importante, potrebbe anche diventare totale, l'auto che si guida da solo, che è uno dei quattro cambiamenti, non è detto che diventi una realtà. L'auto che si guida da sola è un percorso che sta avvenendo e già in buona parte è pronto da un punto di vista tecnologico e sta arrivandoci un passo alla volta. Sicuramente richiederà tempi più lunghi ancora rispetto all'elettrico per arrivare a essere un fenomeno di massa che sostituisca le attuali auto, ma noi siamo assolutamente convinti che arriverà e sarà rivoluzionario. Rivoluzionario da solo e rivoluzionario quando combinato con gli altri fattori. Quando diciamo che arriverà l'autonomo, arriverà in diversi stage, no? diversi livelli, un po' è quello che già vediamo adesso di sistemi di guida assistita, quindi ci saranno un'evoluzione di questi sistemi che andranno a accompagnare, ad aiutare il guidatore in prima battuta. Certo. e questo succede in questi anni e si diffonderà nei prossimi 2 o 3. La generazione successiva è quella dove la guida autonoma sostituirà di fatto il guidatore, che diventerà non più il guidatore della macchina, ma diventerà un passeggero, e questo è quello che andrà proprio a cambiare la natura dell'industria automotive e anche la natura delle città. Poi comunque poi abbiamo l'auto interconnessa, che già lo vediamo, sì, che è uno dei quattro vostri filoni. Il terzo filone è quello dell'auto interconnessa, perché l'auto diventa sempre di più un punto dove, e anche qui collegato col discorso dell'autonomo, un punto dove passiamo del tempo e vogliamo avere accesso dalla nostra autovettura a tutto quello che è il nostro mondo digitale, accesso ai social network, accesso alle email, accesso alle news, accesso alle previsioni del tempo, eccetera eccetera eccetera. Questo da un certo punto di vista pone i produttori di auto in competizione con i produttori di device e di contenuti, semplicemente dal punto di vista di attenzione del cliente. Noi siamo come passeggeri dei clienti che sono nella vettura, e sono clienti che ricevono messaggi, ricevono informazioni, ricevono contenuto e sono tra le altre cose target di pubblicità. Quindi in questo senso chi fa auto si trova a essere in un confine sottile tra la cooperazione e la competizione con chi arriva dal mondo della tecnologia e dei service provider. Comunque, per dire l'importanza del mondo dell'auto, pensate che entro il 2020 ci sono stime che calcolano che l'investimento di ricerca e sviluppo dei gruppi automobilistici nel mondo tra produttori di auto e di componenti supererà i 200 miliardi di euro. Una stima del genere dà l'idea di quanto questo mondo sia centrale. Sì, assolutamente, assolutamente. Gli investimenti sono rilevantissimi perché sta, ripeto, cambiando il prodotto. Quindi quello che i costruttori sapevano fare, che tradizionalmente era legato alla meccanica, era legato al produrre pezzi meccanici, oggi si trasforma in capacità di ingegnerizzare e produrre un oggetto che è sempre più fatto di software, sempre più fatto di dati, sempre più richiede quindi investimenti completamente diversi, che vanno in parallelo agli investimenti che sono necessari per sviluppare i motori elettrici, per sviluppare l'auto del futuro da un punto di vista di contenuto proprio meccanico. Quindi la combinazione di queste diverse componenti di sviluppo del prodotto sicuramente richiede investimenti importantissimi, per i quali l'intera industry si deve assolutamente attrezzare. Ecco, ma che cosa significa quando voi dite che il 40% dei profitti sarà generato dai nuovi servizi per i consumatori? In questo senso è importante sottolineare anche il ruolo dell'ultimo trend che noi vediamo, che è quello verso la sharing economy e i servizi di mobilità, che è qualcosa che è guidato dalle aspettative dei consumatori. Sempre di più i consumatori sono alla ricerca di mobilità più che non di proprietà dell'auto. Questo vuol dire che i veicoli di proprietà privata andranno man mano a diminuire nell'importanza da un punto di vista di quota di chilometri che vengono percorsi nel mondo, cioè in parallelo, l'abbiamo già visto negli ultimi anni, si passa dalla proprietà al noleggio a lungo termine della macchina ed è un primo step, ma a fianco a questo ci sono poi i sistemi di car sharing che troviamo nelle nostre città. Ecco, non c'è solo il car sharing che tutti conoscono, che è quello accessibile al pubblico, c'è anche il fatto che ad esempio un tempo le aziende avevano l'auto aziendale per i dipendenti o per i dirigenti. Adesso c'è il concetto di parco auto aziendale e uno in azienda usa quella che è disponibile, che però magari non è più assegnata nominalmente. Esattamente, questo va esattamente nella direzione che dicevamo, si passa da un concetto di proprietà a un concetto di accesso alla mobilità, e in parallelo a questo si passa da un concetto di modalità singola di trasporto, che io prendo e guido la modalità l'auto condivisa. Quindi quattro trend sono: auto interconnessa, elettrica, autonoma e condivisa. Con questo pensiero ci interrompiamo un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità, continuiamo ancora a parlare con Teodoro Lio e ci colleghiamo anche con il professor Bianchi, che è uno degli amici di questa trasmissione. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Il motore del 2000. vincente sarà veloce e silenzioso, sarà un motore delicato, avrà lo scarico calibrato e un odore che non inquina, lo potrà Rieccoci in linea ancora Lucio Dalla che nel 76 con questa canzone piena di poesia prefigurava il motore del 2000. Lucio Dalla è un romagnolo e lì in Emilia Romagna la motoristica è sentita a livello popolare, sentita come una poesia, però bisogna dire che il motore che Lucio Dalla prefigurava 40 anni fa c'è adesso ed è il motore elettrico, che è bello, lucente, pulito, poco inquinante, ha tutte le caratteristiche che immaginavano Dalla e Roversi, che era il suo paroliere. Parliamo della fabbrica dell'auto. Abbiamo detto che con Teodoro Lio di Accenture che l'auto del futuro sarà interconnessa, autonoma, condivisa ed elettrica. E quindi tutto ciò, Lio, come cambia la fabbrica dell'auto e il ruolo dei produttori? Sì, la combinazione di questi trend crea di fatto uno scenario competitivo abbastanza diverso per i produttori tradizionali, perché quello che diciamo noi è che diventano sotto attacco da una parte dai giganti e dall'altra dalle formiche. I giganti sono i grandi player tecnologici, per lo più americani, quindi le Google, le Amazon di questo mondo, che sicuramente vedono nell'auto del futuro e nel ruolo differente del passeggero, anche come target di contenuti multimediali, uno dei loro punti di attacco, e che stanno quindi entrando in un mercato che prima era molto lontano. Dall'altra ci sono i nuovi entranti che partono dalle start-up. Abbiamo tutti in mente Uber da un punto di vista dei... Sì, perché le barriere all'ingresso saranno inferiori, anche altri potranno mettersi a produrre macchine. Esattamente, un paio di annunci che cito che sono stati fatti negli ultimi mesi: DHL, quindi le poste tedesche, oggi vanno a produrre da soli i furgoncini per le consegne in città elettrici, perché sono estremamente più semplici e non hanno più bisogno della Volkswagen, mentre dall'altra parte... abbiamo Dyson, che conosciamo tutti per le aspirapolveri elettriche a batteria, che dice: noi siamo talmente forti nel mondo delle batterie che adesso andremo a produrre delle auto elettriche. Quindi non è solo Tesla che va a dire costruirò io le macchine al posto dei car maker tradizionali, ma abbiamo anche player che arrivano da settori piuttosto lontani e inaspettati, per cui sicuramente è uno scenario competitivo che cambia con l'auto e cambia con il desiderio diverso di fruirne dal punto di vista dei clienti. Benissimo, devo interromperla perché si è collegato con noi il nostro grillo parlante Patrizio Bianchi, che è uno degli amici di questa trasmissione, il quale è un grande economista aziendale e anche un romagnolo, quindi terra di motori, e su tutti questi cambiamenti rivoluzionari che impattano anche la fabbrica, ha una sua visione che magari non è proprio quella del luogo comune di questo momento, no Patrizio? No, certo, Emiliano Romagnolo, non fare questo errore, perché non dimenticare che in Romagna ci sono i motori, però dall'altra parte in Emilia c'è tutto il pezzo della grande automobile, cioè c'è Ferrari, adesso c'è anche Alfa Romeo, c'è Maserati, c'è Lamborghini, c'è Ducati. E allora che dicono, però tutti questi... Dico una cosa importante, che io condivido molto la cosa che ha detto prima Accenture in questa, però attenzione, tre considerazioni. Primo, l'automobile e la sua manifattura tornano a essere grandi driver di innovazione. Secondo, non coinvolgono soltanto i produttori finali, ma coinvolgono tutti gli operatori. Quando tu dici industria dell'auto elettrica, ricordi che c'è un problema di alimentazione, e allora anche tutti i grandi fornitori elettrici diventeranno grandi player di questo nuovo contesto competitivo. Cioè Enel, Edison, EDF e compagnia bella. Poi ti rendi conto che in realtà secondo me ci sono quattro direzioni di marcia oggi nell'innovazione. La prima è sicuramente quello dell'auto elettrica. sicuramente il fatto che tu fai auto, furgoncini per distribuire la posta, per distribuire cose, non è nuovissima, anche i vecchi carrelli del latte erano elettrici, però sicuramente saranno più diffusi e saranno più necessari, comprese tutte le ibride. Il tema delle ibride è un tema interessante, perché non vuol dire tutto elettrico, vuol dire che dovrai combinare. Comunque il motore a scoppio resta. C'è anche l'idrogeno che sta emergendo, che avrà gli stessi problemi di distribuzione. Secondo tema è il tema dei materiali. L'alleggerimento delle carrozzerie diventa una grande, grandissima area di sviluppo di nuovi materiali. Tu pensa il carbonio, pensa la grandissima Dall'Ara innovativo. Fa delle scocche, cioè delle carrozzerie in le carbonio. Le carrozzerie, guarda, non sottovalutare, perché questo è un fattore di grandissima sono innovazione. Sono affascinanti, cioè una roba robusta ma è leggerissima. La carrozzeria di un'auto della Dall'Ara, che sono le super mega sportive, la alzi con una mano. Ma puoi anche ridurre drasticamente la potenza dei motori se la macchina è più leggera. Poi c'è tutta l'innovazione che riguarda la sensoristica. È la sensoristica che ti permette la famosa auto senza guida, perché è quella che ti permette già adesso, quando tu parcheggi la tua macchina, di non andare, quando fai il parcheggio, contro la macchina vicina. Quindi anche a questo ci saranno delle fasi di avvicinamento. Magari tu non andrai in crociera con la tua auto tutta autoguidata, ma probabilmente ti parcheggerà quanto prima la macchina. Da ultimo c'è l'evoluzione dei motori, che è connessa con la segmentazione del mercato. Non dimenticare che oggi il mercato dell'auto è nettamente spaccato in due comparti, che io non so neanche se possiamo chiamare automobili tutte e due, perché ci sono la parte sicuramente delle piccole auto, dei compact, delle auto che una volta si chiamavano di massa, e dall'altra parte però c'è quell'area di supercar, dicevo prima Ferrari, dicevo prima Lamborghini, che ormai sono un altro prodotto. Non c'è, fra i due comparti c'è un tale divario di prezzo, c'è un tale divario di utilizzo, c'è un tale divario anche proprio di percezione scusate la battuta un po' sciocchina, certamente tu non vai a fare la spesa con una Lamborghini, è una due posti, ma non la usi per quello. Certamente la Lamborghini ti evoca altre cose. Allora, abbiamo solo più 3 minuti, io volevo dare 1 minuto e mezzo a Lio e 1 minuto e mezzo a Bianchi per rispondere alla domanda rispetto a tutto questo scenario pazzesco e futuristico: come cambia la fabbrica? Iniziamo da Lio, come cambia la fabbrica? Sì, la fabbrica cambierà sicuramente in due direzioni. La prima direzione è quella dell'efficienza guidata dall'Industry 3.0. Quindi l'interconnessione all'interno. L'interconnessione all'interno delle macchine dei lavoratori, che cambierà il modo di produrre. La seconda direttrice è quella di cambiare il prodotto, che da essere una fabbrica di oggetti unicamente meccanici diventa una fabbrica di sviluppo software, soprattutto pensando al mondo della guida autonoma, che vuol dire sviluppare algoritmi e capacità di interpretare la realtà per guidare la macchina da sola. Ecco, Bianchi, come cambia la fabbrica in questo scenario futuristico? Sistema. La fabbrica diventa uno snodo di diverse cose che devono essere messe insieme anche fuori dalla fabbrica. Ah, interessante. Bene, siamo alla fine. Potete seguirci sulla nostra pagina di Radio 24, Fabbrica 2.4 ha la sua pagina del programma, dove trovate anche contenuti speciali. A risentirci, a sabato prossimo. We'll be right back.